Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Oscar, alle 8:21. Lo so, è venerdì, ma è tanto venerdì. Non vuol dire niente, lo sai, non vuol dire niente. Poi adesso avrete delle partite che arrivano, altro che venerdì. Non sarà un bel venerdì, sì. Non si sa, non si sa, magari, vabbè. Magari. Tanto vedi, oggi c'è un segno, ti invito a considerare, sì. Potrebbe essere un casuale, bene, magari bene. No, bene. Però perché qual è oggi? Tra i santi, oltre a San Simplicio, Papa, eccetera, è uno dei 40 Sant'Alessandro, perché noi abbiamo la bellezza di 40 diversi Sant'Alessandro. Sant'Alessandro è il 26 agosto, dai. Vabbè, ma però tra gli altri 39, oltre a quelli là, tutti regolarmente registrati nel calendario liturgico, oggi è un Alessandro santo, martire da Pamea del 172, e chi lo sa, potrebbe essere che proprio lui tra i 40 allunga la mano, no? Speriamo. Sei scettico, per così dire. Però posso testimoniarvi, cari amici, la fede di Alessandro qui è sincera. Lui non prega i santi per le partite di calcio. No, i santi ci hanno di meglio da fare, per così dire. Ecco. Allora, oggi è l'anniversario della morte di un italiano per il quale, quando ero giovane, mi batteva il cuore. Era uno degli eroi dei miei sogni. Pensate, avevo come eroe Giuseppe Mazzini, proprio destinato a restare in minoranza nel nostro paese. E voglio ricordare, però, tra le tante cose che dimentichiamo nella storia, per esempio oggi è l'anniversario nel 1945 del più duro tra i tanti bombardamenti a cui gli americani sottoposero Tokyo. Pensate che solo in quello oggi, nel 1945, fu distrutto il 26% della città, con oltre 100.000 morti in un giorno. Ecco, noi dimentichiamo che alle spalle abbiamo cose di questo genere qua. Ogni tanto forse ricordarselo sarebbe bene. Auguri a Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma. Ah, Ignazio Marino, redivivo. Allora, caro Oscar, vogliamo tornare a parlare un po' della imposta forfettaria, no? Quella, i 100.000 euro per i ricchi stranieri. Per i ricchi stranieri. Flavio Briatore ha detto: a questo punto forse torna in Italia. Lo so che poi se personalizziamo su Briatore le persone... No, è sbagliato. No, era un dato di cronaca, Briatore ha detto questo. Ma mi ha colpito anche la proposta del sindaco di Firenze, Nardella, che ha detto: metterò i pass per controllare chi entra nelle zone le frequentate dalle prostitute. Con le foto. E con le foto, così se uno va a prostitute a Firenze... arriva una bella foto a casa, con le mogli. Cioè, questa intervista è costruita con una specie di amicamenti reciproci tra il giornalista e il sindaco di Firenze, no? Ma poi quelle foto dove vanno? A casa. A casa. Già, quindi ci sarà una moglie a pregustare, no? Ci sarà l'evento, una moglie, l'apertura della busta a casa. Del resto, comprate, vietate vendite di mattarelli a Firenze. Vietate le vendite di mattarelli, coltelli e coltellate. Del resto, sai com'è, la gente è abituata a ricevere le bollette, invece adesso riceverà delle cose più hot. Esatto, delle bollette. Hot. Una bella foto così. Pensate, non c'è neanche più, non ha messo più per legge l'autovelox, non c'è più la foto con, perché violazione della privacy, eccetera, mentre la foto, se vai a Mignotte, trac. Ma tu che ne pensi? Ma no, io dai, penso che sia, cioè, se uno vuole contrastare lo sfruttamento alla prostituzione, che è l'unico reato, no? La prostituzione è giusto farlo, è stroncarlo, eccetera. Andare a colpire, andare a sanzionare, cioè andare a disfare famiglie, perché poi, no, introducendoci un po'... questo sorrisetto. No, dai, questo non si può fare. Cioè, penso che non sia la soluzione giusta. Ma poi soprattutto, perché Nardella avrà... chi lo sa? Beh, si vede che vuole contrastare il degrado, quello che considera. No, il problema è che questo ha preso tutti i sindaci, questo li capisco. È capito anche a un mio amico una volta che non sapeva dove sbattere la testa. Era un classico, sai, quei comuni che sono nella cintura delle grandi città, nelle cui strade, quindi tra i grandi anelli viari e le strade provinciali radiali che entrano in grandi città, finiscono per concentrarsi i fenomeni delle cosiddette, ohimè, espressione che sembra definire quarti di carne e oscena, ma insomma le prostitute a basso costo, purtroppo. E lui diceva: io non so come fare, perché chi abita lì alle casette lì, giustamente dice: scusi, io e i miei figli come posso? E dice: ma tu a quella gente cosa diavolo puoi dare come sindaco? Ecco, il problema è questo qua, secondo me. Sì, sì. No, certo, ma che sia un problema a volte di ordine pubblico, a volte di sicurezza, di igiene, delle persone che vivono in quei quartieri, il problema c'è. Insomma, da che mondo è mondo, però non si riesce a risolvere questa questione. Come uno dice, sai, è venuto prima l'esattore delle tasse per lo Stato e poi la prostituta, sono i mestieri più vecchi del mondo. Comunque, 800 24 0024 è il numero di telefono per intervenire in diretta, se volete intervenire su questa cosa che ha proposto Nardella. Ma in realtà il tema che vogliamo approfondire da ieri è quello della tassa dei 100.000 euro forfettaria per i ricchi, diciamolo francamente, che vogliono portare la residenza in Italia. Allora, con noi abbiamo Santo Versace, imprenditore, ex parlamentare. Buongiorno Versace, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Con noi c'è anche Paolo Ferrero. Io devo dire, Ferrero, buongiorno, ex ministro. Buongiorno. Oggi ho dovuto chiedere, ma mea culpa, ho detto: ma è ancora segretario nazionale di Rifondazione Comunista? Cioè, ho detto, c'è Rifondazione Comunista, sì. Lei, diciamo, parla delle virtù della censura, nella misura in cui un partito è censurato, lei giustamente si chiede se esiste. È così. Segretario, Rifondazione esiste. Sta facendo un congresso. Sì. A occhio, Rifondazione è uno dei partiti più radicati in Italia. Mm. Infatti, ad esempio, nel 2 per 1000 siamo i quinti come numeri di sottoscrizioni, ma semplicemente, se lei guarda i telegiornali, non ci sono, infatti, infatti, per questo. Allora, Santo Versace, lei si è espresso positivamente. Devo dire che è un po' minoritaria come posizione. Oscar Giannino ieri qui è stato molto duro nei confronti di questa proposta. Però ci spieghi perché può essere attrattiva. No, stiamo cominciando a parlare per gente che viene a portare la residenza in Italia, quindi un invito a venire in Italia a gente che ha grandi disponibilità economiche. Chiaramente, quindi, non stiamo parlando già dei residenti attuali, e stiamo parlando anche di una legge che riguarda le attività e tutto quello che si rivolge all'estero, le ricchezze che si hanno già. Non si parla del reddito che si viene a produrre in Italia, se se ne produce, quindi c'è un certo distinguo. È una cosa che molte gente, alcuni che altri paesi attuano già. Noi ce l'abbiamo anche al confine dell'Italia. O se uno vuole andare a stare in Svizzera, va a trattare prima il carico fiscale a forfè fisso per un certo numero di anni o per sempre, quindi è una cosa che esiste già. Quando dico di attrarre ricchezza, significa creare posti di lavoro e far girare meglio l'economia, fermo restando, e qui è una cosa che dico da sempre, che in Italia non mancano i soldi, non c'è una corretta spesa del denaro che lo Stato incassa, perché ricordiamoci che la spesa pubblica nel 2001, prima che il centrodestra entrasse al governo stabilmente per quasi 10 anni, a parte all'interno, era 553 miliardi. Quando il centrodestra uscì nel 2011 era diventata 828 miliardi. E nessuno capisce come si è fatto, come si è, così poco tempo, con una crisi e mezzo, si è fatta lievitare tanto la spesa pubblica a danno dei cittadini contribuenti veri. Quindi questo è un discorso. E in Italia i soldi per far stare bene tutti ci sono, perché con quello che amministra lo Stato, se si spendessero correttamente e se si applicassero per i corrotti le stesse leggi che si applicano per la criminalità organizzata, compreso il 41 bis e senza prescrizione come per l'omicidio d'altro, perché chi tocca il denaro pubblico in maniera non corretta va trattato come chi compie degli atti criminali e quindi andiamo al penale. Noi in Italia non avremmo questo problema né del debito pubblico esagerato né del fatto che non si possa dare un minimo di assistenza corretta e un reddito minimo a chiunque ne abbia bisogno. Sì. Quindi c'è da dire, no, ma c'è da dire una cosa, Oscar, Santo Versace ci fa notare una cosa, cioè se il nuovo residente arriva in Italia, a parte i 100.000 euro, e apre un'attività, su quella paga le tasse regolarmente, quindi non è che gli si dà un regime fiscale totalmente a favore anche se apre un'attività, su quello è importante chiarirlo. No? Sì, però resta... Chiaro. Però Oscar, quindi, no, che per correttezza, altrimenti viene raccontata male. No, certo. Sembra che uno arriva in Italia e non paga più tasse. No, chiaro. Paga 100.000 euro forfettari su quello che guadagna all'estero, ma se apre un'attività paga come tutti le tasse. Sentiamo Ferrero che dice. Ferrero, che dice lei? Ma io penso che questa, che è stata descritta correttamente, è un ennesimo episodio di questa storia per cui ai ricchi vengono fatti gli sconti sulle tasse e i paesi si contendono la residenza dei ricchi facendo sconti, così come i paesi si contendono la presenza delle imprese facendo sconti sulle tasse. E quindi i ricchi sono favoriti e attratti e pagano sempre meno. E gli unici che pagano le tasse alla fine, compiutamente, sono i poveracci, cioè i lavoratori e i pensionati. Questo meccanismo è un meccanismo che aumenta le differenze sociali complessivamente, perché permette ai ricchi di risparmiare e ai poveri di essere tassati, e questo è un meccanismo che aumenta la crisi, perché uno dei problemi, anzi forse il problema fondamentale della crisi, è l'assenza di una domanda solvibile e sufficiente, cioè che la gente normale non ha abbastanza soldi, mentre altri ne hanno troppi di soldi. Ecco, a quelli che ne hanno troppi gli si fanno i regali, e quelli che non ne hanno abbastanza per arrivare alla fine del mese devono pagare fino all'ultimo. Quindi si aumenta questo divario, secondo lei? Si aumenta questo divario. Sì. In più, io faccio notare una cosa che è abbastanza impressionante: se uno solo fa un passo indietro e prova a guardarla così, lei vede che i poveracci, quelli che scappano dalle guerre, dalla fame, trovano i fili spinati, e i ricchi invece li si propone i paradisi fiscali. Quindi c'è veramente una sorta di diciamo, sulle differenze di classe, perché queste sono differenze di classe, diventa che gli uni sono un'umanità che può spostarsi dove vuole, va e tira avanti, e gli altri sono un'umanità chiusa dentro i fili spinati. Siamo rasentando cose già viste nel secolo scorso, non con la brutalità del campo di concentramento, ma con la brutalità di politiche economiche che producono differenze, le riproducono all'infinito, producendo una barbarie. Questo a me pare. Però questo presuppone sempre un retropensiero, non so se è corretto, Ferrero, che la ricchezza sia un po' una colpa. No. Adesso su questo ovviamente si può discutere, io ho le mie opinioni, io penso che una ricchezza al di sopra di un certo punto non sia legittima, avanti. Però la cosa che faccio notare, a prescindere da come uno la pensa su questo piano, diciamo, generale, si dovrà porre il problema che il mondo ha funzionato un po' meglio quando le differenze tra i più ricchi e i più poveri si sono ridotte, perché questo elemento permette maggiore elemento di civiltà, permette a tutti di aumentare dei consumi in un modo decente, e che il problema oggi nel mondo è esattamente che abbiamo nuovamente delle differenze enormi, e che oltre a queste differenze enormi vediamo una distruzione dell'ambiente, migrazioni bestiali. Tra un po' avremo il problema dei migranti che scappano dai problemi della siccità e dai problemi delle inondazioni per l'aumento dell'acqua, dei mari, per lo scioglimento dei poli. Quindi abbiamo lei una vede terra. Questa sperequazione, insomma. Io la vedo così, per dirla brutalmente, che l'umanità potrebbe stare piuttosto bene, perché la produttività del lavoro è alta, perché la tecnologia non è mai stata così sviluppata, la scienza, e invece, ma questo presupporrebbe una redistribuzione del denaro, una gestione del potere e dell'ambiente in modalità razionali, e invece questa sperequazione enorme di poteri e di soldi fa sì che quella che potrebbe essere una benedizione, cioè il fatto che la gente finalmente possa stare civilmente su tutto il mondo, pochi stanno meglio e tanti stanno peggio. Allora, per i nostri ascoltatori, negli ultimi 15 anni un miliardo e mezzo di abitanti del pianeta Terra se guardiamo alla soglia di un dollaro, 800 milioni se andiamo alla soglia di due dollari, è uscito da quella soglia ed è salito. Quindi se guardiamo al pianeta Terra, cioè non guardiamo solo a casa nostra, ma complessivamente nel paese, eh sì, la diseguaglianza è diminuita, non è aumentata, come non era mai diminuita nella storia di questo granello che gira per il cosmo, che è la Terra. È incredibile a dirsi, è stato il mercato, non lo Stato redistributore a farlo. Uno, però questo riguarda il mondo. Se andiamo in Italia invece, attenzione, qui è vero il contrario, perché i dati ci dicono che in questi anni di crisi effettivamente la diseguaglianza nella distribuzione del reddito e anche nei patrimoni sia pur meno, ma nel reddito si è cresciuta. Però attenzione, se andate a vedere i dati disaggregati, reddito lordo guadagnato da ciascuno prima degli effetti dei trasferimenti pubblici, cioè prima degli effetti del welfare, e lo mettete in una colonna e mettete nell'altra colonna reddito disponibile residuo una volta nettati, al netto dei trasferimenti e delle tasse pagate, domanda, secondo voi, cari ascoltatori, cosa dovrebbe essere più giusto? Che la diseguaglianza ovviamente diminuisce dopo l'intervento del welfare. E invece no, in Italia la diseguaglianza si accresce una volta regolato il conto tra sul reddito lordo di ciascuno, tra le tasse pagate e quello che riceve in cambio come trasferimenti. Cosa voglio dire? Che qui c'è ancora più diseguaglianza, non solo per gli effetti della crisi, ma per un welfare mal concepito, perché i suoi benefici non vanno ai poveri assoluti e ai giovani che hanno perso un mucchio di reddito, molto patrimonio anche. Quindi da questo punto di vista, Ferrero, in Italia lo Stato viene meno alla sua funzione, quella che lei, e lo capisco da sempre, dal suo punto di vista, legittima lo Stato come la mano forte che dovrebbe distribuire. Qui gli effetti del welfare in Italia sono esattamente opposti a quelli che dovrebbe avere. Detto questo, che però con la tassa forfè non c'entra, è un po' vero che il problema di contendersi i ricchi contribuenti, che è una forma attraverso la quale tutti i paesi avanzati tentano di risolvere i propri problemi di cassa, perché hanno sete di getto. Beh, per essere fatto bene deve essere armonizzato bene con la nostra disciplina, perché, e questo lo dico a Santo Versace, io che pure voglio tagliare le tasse ma le voglio tagliare in equilibrio, mi pongo il problema perché un italiano che detiene immobili o asset all'estero si trova a pagare giustamente nel nostro paese aliquote molto elevate, e a quel punto per giustificare un forfè che non ha a che vedere, non è né proporzionale né tantomeno progressivo e neanche prendere in considerazione la cifra dell'imponibile, beh, perché di fronte alla Corte Costituzionale la cosa non appare in violazione degli articoli 353 della Costituzione, ci vuole un solido argomento. L'argomento, semplicemente per dire facciamo più cassa, non è un solido argomento, perché bisogna avere gli argomenti per cui noi non stiamo violando quei due articoli. Io voglio la flat tax per tutti, però siccome qui la flat tax non c'è, evitiamo allora di dare ceffoni in faccia agli italiani che le tasse le pagano. Non so se Santa Versace... E io sono uno di quelli che la paga sempre, che ha pagato le tasse sempre al 101%, pagando anche miliardi nette al tempo delle lire di imposte all'anno personali e milioni di euro in questo periodo in cui c'è stato. Ma chi risponde a Ferrero che dice che questo alimenta le sperequazioni delle disuguaglianze, cioè favorendo sempre di più? Rispondo a Ferrero che quando sono stati loro al governo, e il centrodestra c'è stato anche in questi ultimi anni, nessuno ha fatto una lotta contro la corruzione adeguata a quella che serve al paese. Rispondo a Ferrero, che lui è stato ministro, che studiando bene i bilanci, io mi chiedo a cosa serve la sovrastruttura delle regioni se il loro bilancio è 80-85% la sanità. Quindi abbiamo bisogno delle regioni, una sovrastruttura corrotta, costosissima per gestire gli ospedali, siamo dei criminali. Ecco dove finiscono. Quindi è chiaro che sono d'accordo sul principio che ci debba essere una distribuzione più equa del denaro, che si debba puntare a quello, che si debba evitare di fare una guerra a Saddam che crea un casino e poi una guerra a Gheddafi. Tanto anche erano criminali, dittatori, non è che la situazione è migliorata e non siamo noi che dobbiamo imporre la democrazia nei paesi, ma è un fatto autonomo. Abbiamo creato un casino per il mondo. Prima con Saddam, poi con Gheddafi e poi con Assad. Sono tre situazioni dove abbiamo moltiplicato il numero dei morti. Che dobbiamo... Cioè, è chiaro che Ferrero sì, dice la redistribuzione... è d'accordo con me su questo. Lei dice la redistribuzione ci potrebbe essere se non si sperperasse il denaro in cose inutili invece di andare a criminalizzare il ricco che fa profitti insomma con le proprie imprese. Questo è soluzione adeguata e lotta veramente, trattare come i criminali, come la criminalità organizzata, chi tocca il denaro pubblico, chi lo spende male o lo ruba. Questo è un concetto di base. Ed è chiaro che in Italia all'interno della spesa pubblica di oltre 300 miliardi ci sarebbe una spesa corretta, la possibilità di non fare soffrire nessuno, quindi degna della civiltà di questo paese e dell'obiettivo che si ha. Nel discorso mondiale anch'io sono per una distribuzione più equa. Ricordiamoci, sì, io sono stato eletto col PDL in Parlamento, ma le mie uniche tessere erano la firma di Pietro Nenni negli anni 60, a inizio anni 60, 61 e dintorni, e io non è che ho cambiato idea su questo discorso. Allora, cioè, poi diciamo che il 68 in Italia ha abolito l'ascensore sociale, il 68, che le regioni hanno creato un problema di bilancio pubblico spaventoso, sì, perché sì, sono associazioni criminali di stampo politico, l'ho detto in aula, questa non è che è una novità, l'ho detto in aula in un intervento, che vanno abolite. E tutte, quindi ci sono tante cose da sì, fare. Sì, sono quelle, gli sprechi, però si fermi un attimo perché dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo con Ferrero, Versace, gli ascoltatori. Il tema ovviamente accalora e appassiona, come vedi, caro Oscar. E state con noi, tra un attimo siamo ancora in diretta. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, ci sono anche tanti ascoltatori, caro Oscar, su questo tema. Sentiamo Giuseppe dalla provincia di Bari. L'invito, buongiorno a tutti, sempre siate sintetici, così c'è spazio per tanti. Sì, sì, buongiorno a tutti e due, a tutti gli ascoltatori. Sì. Niente, io volevo prima di tutto dare ragione a Versace per quanto riguarda l'articolo 41 bis da dare ai vampiri che succhiano il sangue degli italiani, diciamo così. E però rimane il fatto che poi chi va al governo, penso anche lui, e insomma lo schieramento che dove era posizionato una volta, e poi chiaramente vanno scemando queste cose. Per quanto riguarda invece la tassa da 100.000 euro, sono d'accordissimo su questa cosa. Che ben vengano tutte le persone che abbiano soldi o che sia, creino lavoro e posti di lavoro, specialmente nel meridione, dove qui c'è una crisi enorme alla portata di mano di tutti quanti, cioè qua non si può andare più avanti. Qua cioè che vengano degli sceicchi e che portano. Vengono gli sceicchi, che vengono i texani, che portano i pozzi di petrolio, basta che portano lavoro e reddito a tutti. Qui, ah, qui sono. Qui, no, diciamo è bello perché noi, Giuseppe, abbiamo sempre questa idea che debba arrivare il salvatore dall'estero, il salvatore o dall'alto o dall'estero. O lo guardiamo dall'alto o dall'estero in questo caso, no? Oscar storce un po' la bocca, no? Però non so, Ferrero, le darebbe fastidio arriva un bello sceicco e che approfittando di questo regime forfettario e poi si insedia qui e dà del lavoro a tutti al sud, in Puglia, le darebbe fastidio? Scusate, ci sono due esempi clamorosi. No, più che altro la cosa non c'entra niente, perché è evidente che se ci arriva uno qui e non paga le tasse nella sostanza sul suo reddito che ha fatto all'estero, paga 100.000 euro. 100.000 euro, ma poi sulle cose che fa in Italia è uguale, non è che quello perché dovrebbe fare una fabbrica in Italia? Primo, secondo, questo è vero, esatto. Questo è vero. Perché, perché se guadagna 100 milioni di dollari paga 100.000 euro, almeno no, sui redditi dell'estero. Sui redditi esteri, ma appunto, no, ma sui redditi esteri, e non è detto che al paese in cui si origina quel reddito vada bene, perché poi questo la politica tende a non dire niente. Però la cosa che soprattutto è sbagliata dal mio punto di vista è che il signore che ha telefonato dovrebbe chiedersi: ma perché non ci sono i posti di lavoro oggi? E la mia opinione è molto semplice: se la tecnologia continua a migliorare, la produttività del lavoro a migliorare, e invece che ridurre l'orario di lavoro, come si fece al dopoguerra e gli anni 80, si allunga l'orario di lavoro e si manda la gente in pensione a 70 anni, i posti di lavoro per i giovani non ci saranno mai, non perché il Padre Eterno ce l'ha con noi, ma perché c'è gente che lavora troppo e gente che non lavora. Bisogna ridurre l'orario di lavoro. Secondo, bisogna permettere che la gente che non ha i soldi, non gli sceicchi, quelli da 1.000 euro, ce n'abbiano in modo da poter spendere un po', perché se quelli spendono l'economia gira, se quelli non spendono l'economia non gira. Per il nostro ascoltatore è qualcuno che porta la... Non so, Versace cosa voleva dire su questo? Sì, ma quelli non portano niente. No, dico che sempre... Sì. Ho ascoltato Ferrero e voglio fare presente a Ferrero che noi nel 68 abbiamo demolito la scuola professionale che ora faticosamente cerchiamo di ricostruire. Voglio dire a Ferrero che nel nostro settore ci sono decine di migliaia di posti di lavoro che non si riescono a coprire perché non c'è la manualità o la gente non vuol fare certi tipi di lavoro. e da noi in tutte le aziende nel sistema alta gamma, moda, design o altro, la gente viene pagata correttamente, le leggi vengono rispettate in pieno e tutti lavorano con grande soddisfazione. C'è anche un principio molto importante, che noi abbiamo insegnato, noi dopo dal 68 in avanti, a odiare il lavoro e quindi a non amare il lavoro come era una volta, perché ci sono tanti tipi di lavoro che si possono fare. C'è anche un discorso del ripristino territoriale, di risistemazione del territorio, ma la gente deve mettersi in testa che i lavori sono tutti lavori da rispettare. Noi abbiamo creato un dispetto sociale e culturale verso il lavoro manuale, ma quando andiamo in un museo cosa troviamo? Solo lavoratori manuali che hanno le loro opere esposte nei musei. Quindi è un discorso anche questo. Non basta, che è chiaro che bisogna fare tecnologia avanzata, la banda larga e tutto quello che serve, ma bisogna ripristinare anche l'amore per il lavoro, anche perché ci sono tantissimi posti di lavoro non occupati. Però rimanendo sul punto, che oramai stiamo parlando dell'universo dell'orme terracqueo, perché si va dalla tecnologia nemica del progresso, sorriso da parte mia, non mi metto a, perché non ci abbiamo il tempo, perché stiamo parlando d'altro. Il problema è semplicemente se in questo paese in una settimana ci siamo inventati la tassazione asimmetrica a seconda dell'età. E incredibilmente all'IRPEF, e anche quella, ragazzi, non è possibile. Un conto sono i contributi. Io ho sempre proposto la cosa sui contributi. Invece è sembrato che il PD e Renzi stia proponendo la tassazione asimmetricamente progressiva a seconda non solo del reddito ma anche dell'età. Poi nella stessa settimana ci siamo inventati il forfettone per i ricchi, e, cioè, siamo un paese dove la politica è molto prolifica dal punto di vista della fantasia fiscale. Naturalmente però per tutti gli italiani l'iperprogressività non cambia, questo è fantastico. C'è Valerio da Bologna, buongiorno Valerio. Buongiorno a voi. Ecco. Allora, secondo me va fatto un chiarimento primo, cioè non è che si fa il forfettone sui redditi prodotti all'estero, si fa il forfettone sui redditi prodotti in Italia e riguarda solo le persone fisiche. Perché dice prodotti in Italia? Perché prodotti in Italia da persona fisica, ad esempio fa l'esempio classico, lo sportivo professionista che fa i contratti al netto, che hanno un'incidenza di circa il 55% di tasse dirette, IRPEF e addizionali eccetera, quel soggetto percepirà sempre quel netto, ma la sua società sportiva, la squadra di calcio del caso, non verserà l'IRPEF su quella prestazione. Quindi il vantaggio alla fine per chi sarà? Sarà per quegli stranieri che verranno in Italia a produrre reddito come persone fisiche. Il reddito prodotto in Italia è tassato. Se è un reddito prodotto in Italia ed estrovestito a fini di elusione, viene accertato e tassato. Quindi se lei sta parlando di triangolazioni come redditi fittiziamente prodotti all'estero da intestazioni di rappresentanti di giocatori e versamenti delle squadre, dei club professionisti, con loro traguardati sull'estero ma a fini di elusione, non si applica il forfettone. Questo voglio essere chiaro su questo. L'Agenzia delle Entrate nella nota in cui ha tentato di spiegarlo l'ha detto esplicitamente. Quindi Valerio, no, non è fatto per redditi prodotti in Italia, né da italiani né da stranieri. Si paga sui redditi all'estero, cioè esatto. Se uno sceicco che guadagna 100 milioni di dollari viene a mettere la residenza in Italia, se per gli ultimi 9 anni è stato all'estero, e gli si chiede su quei 100 milioni 100 euro 25 mila per tutte le sue 1000 mogli, esatto. A quel punto a testa, familiari. Se però apre un bar, lo sceicco paga tutto come un italiano. Tu stai sperando che i cinesi dopo il closing aprano anche un bar a Milanello? I cinesi che aprono i bar a Milano ce ne sono già tanti. Ma sentiamo Luca da Milano. Buongiorno Luca. Ecco Luca da Milano, ci commenta, dice, avete fatto aspettare un'ora. Ci commenta così Luca. Noi dobbiamo chiudere, però Ferrero, in veste dell'ex sua posizione al ministero, l'ha sentita? Noi siamo partiti da lì, da Nardella, che vuole fare le foto a quelli che vanno a prostitute mettendo i controlli e spedendo a casa una bella fotona, così la moglie, in genere la moglie, no? Più che i mariti, le mogli vengono rese edotte del fatto che il marito era lì alle 2 di notte. Credo che quando non si risolvono i problemi del paese si comincia a dire ste stupidaggini come Nardella. Io farei notare questo invece, che quando io ero al ministero il fondo delle politiche sociali era di 1 miliardo. Adesso con questo governo è a 214 milioni, vuol dire che hanno tagliato al 25% i fondi in realtà per la povera gente d'assistenza. Però dall'altra parte fa la legge delega per dare il reddito di inclusione a 400.000 famiglie almeno. Sì, solo che hanno tagliato così tanto tutta l'assistenza dei comuni che il miliardo e disperi che viene messo centralmente è stato abbondantemente già tagliato dai comuni, perché il problema è che lo Stato italiano funziona effettivamente a rovescio. Fa pagare meno tasse ai ricchi, se lei ha delle azioni paga il 20, il 24%, che non ai lavoratori e ai pensionati. E lo sceriffo di Nottingham, lo Stato italiano, non Robin Hood. Per questo noi proponiamo di farla patrimoniale sulle grandi ricchezze e di abbassare le tasse sui redditi più bassi. Era partito d'accordo con Oscar sullo sceriffo di Nottingham, poi è arrivato alla patrimoniale e Oscar ha detto no, era partito benissimo sullo Stato. Che il welfare italiano e la piramide del prelievo sia capovolta, questo è un fatto. Cioè, come si vede, non si tratta di essere di destra o di sinistra, se uno vede i numeri è così. Sì. Ringraziamo Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, e Santo Versace, imprenditore ex parlamentare, sulle note di Ligabue che dice che è venerdì. Va bene, caro Oscar. Attenti a voi tutti che andate alle cascine, perché arrivano le fotine. Le fotine e le cascine. Ciao. Non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa sarà il minore dei mali. È venerdì, non ci rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il